e non restò di ruinare a valle fino a Minos che ciascheduno afferra. Mira ch'ha fatto petto delle spalle, perché volle veder troppo davante, di retro guarda e fa retroso calle. Vedi Tiresia che mutò sembiante, quanto di maschio femmina divenne, cangiandosi le membra tutte quante. E prima, poi, ribatterle convenne li due serpenti avvolti, con la verga, che riavesse le maschili penne. Aronta è quel che al ventre li s'atterga, che nei monti di Luni, dove ronca lo carrarese che di sotto alberga, ebbe tra bianchi marmi la spelonca per sua dimora, onde a guardar le stelle e il mar non li era la veduta tronca. E quella che ricuopre le mammelle che tu non vedi con le trecce sciolte, e a di là ogni pilosa pelle, Manto fu, che cercò per terre molte, poscia si puose là dove nacquio, onde un poco mi piace che m'ascolte. Poscia che il padre suo di vita uscio e venne serva alla città di Baco, questa gran tempo per lo mondo gio. Suso in Italia bella giace un laco a piede l'Alpe che serva la Magna sovra Tiralli, ca nome Benaco. Per mille fonti, credo, e più, si bagna tra Garda e Valcamonica e Pennino dell'acqua che nel detto laco stagna. Loco è nel mezzo, là dove il Trentino pastore, quel di Brescia e il Veronese segnar Poria, se fesse quel cammino. Siede Peschiera, bello e forte arnese da fronteggiar bresciani e bergamaschi, ove la riva intorno più discese. Ivi convien che tutto quanto caschi ciò che in grembo a Benaco star non può, e fassi fiume giù per verdi paschi. Tosto che l'acqua a correr mette co, non più Benaco, ma Mencio si chiama, fino a Governol, dove cade in po. Non molto a corso, che il trovo una lama, nella qual si distente e lampaluda, e suol di state talora esser grama. Quindi passando la Vergine cruda vide terra, nel mezzo del pantano, senza cultura ed abitanti nuda. Lì, per fuggire ogni consorzio umano, ristette coi suoi servi a far sue arti, e visse e vi lasciò suo corpo vano. Gli uomini poi che intorno erano sparti s'accolsero a quel loco che era forte per lo pantan ch'avea da tutte le parti. Fer la città sovra quell'ossa morte per colei che il loco prima elesse Mantua l'appellar senz'altra sorte. Già fuor le genti sue dentro più spesse prima che la Mattia de Casalodi da Pinamonte inganno ricevesse. Però t'assenno che, se tu mai odi originar la mia terra altrimenti, la verità nulla menzogna frodi. E io, maestro, i tuoi ragionamenti mi son sì certi e prendon sì mia fede che gli altri mi saria in carboni spenti. Ma dimmi, della gente che procede, se tu ne vedi alcun degno di nota, che solo a ciò la mia mente rifiede. Allor mi disse, quel che dalla gota porge la barba in sulle spalle brune, fu quando Grecia fu di maschi vota, sì ch'appena rimaser per le cune, Augure. E diede il punto con Calcante in Aulide a tagliar la prima fune. Euripilo ebbe nome, così il canta l'alta mia tragedia in alcun loco. Ben lo sai tu che la sai tutta quanta. Quell'altro che ne fianchi è così poco, Michele Scotto fu, che veramente delle magiche frode seppe il gioco. Vedi Guido Bonatti, vedi Esdente, che avere inteso al cuoio allo spago ora vorrebbe, ma tardi si pente. Vedi le triste che lasciaron l'ago, la spuola e il fuso e fecersi in divine, fecer malie con erbe e con imago. Ma vienne omai che già tiene il confine da me due gli emisperi e tocca l'onda sotto Sobilia, Caino e le spine. E già ier notte fu la luna tonda, ben tende ricordar che non ti nocque alcuna volta per la selva fonda. Si mi parlava e andavamo in troque. Fine del canto 20, fine del capitolo 4.